Il sogno della lattaia. Gita era una giovane ragazza. Viveva in un piccolo villaggio con sua nonna. Gita era una lattaia e possedeva due mucche. Ogni giorno mungeva le mucche e portava il latte su una pentola sulla sua testa in una città vicina. Lavorava tutto il giorno e poi tornava a casa la sera. Gita si prendeva cura delle sue mucche, dava loro da mangiare e le teneva sempre pulite. La nonna amava Gita, ma Gita era una sognatrice. Sognava di diventare sempre più ricca, ma i suoi sogni la mettevano sempre nei guai. Gita, le mucche stanno uscendo dal capanno. Si perderanno. Perché non le stai controllando? Oh, scusa, nonna. Stavo sognando e pensando. Ah, so cosa stavi pensando. Sogni sempre di diventare ricca. Devi lavorare di più per quello. Solo sognare non ti renderà ricca. Questo tuo sognare ad occhi aperti ti costerà caro un giorno. Ma Gita non l'ascoltava. Non smise mai di sognare ad occhi aperti. Un giorno, mentre Gita si stava preparando per andare via a vendere il latte, sua nonna la chiamò in cucina. Ascolta, mia cara, oggi non devi andare al mercato a vendere il latte. Per quale motivo, nonna? C'è una grande cerimonia di nozze nel villaggio vicino domani. Il sindaco celebra il matrimonio di sua figlia. Tutte le persone importanti di tutti i villaggi vicini parteciperanno al matrimonio, capisci? Un matrimonio deve essere molto importante. Ci saranno tutte le persone ricche. Ma nonna, perché non dovremmo vendere il latte? Il sindaco non si arrabbierà? Oh! No, mia cara dolce bambina. Il sindaco desidera che il cuoco prepari tutti i dolci più deliziosi. Mi ha personalmente chiesto di mandargli un grande vaso di latte fresco per la preparazione. Ha promesso di pagarci il doppio di quello che guadagniamo in un solo giorno al mercato. Questa è una buona opportunità per guadagnare più soldi e più rispetto nei villaggi vicini. Il doppio dei soldi? Nonna, posso per favore andare al matrimonio domani? Farò in modo che tutti sappiano che i dolci sono stati fatti con il latte che abbiamo venduto al sindaco. E la moglie del sindaco mi presenterà poi ai suoi ospiti. Oh, indosserò il mio miglior vestito e camminerò con orgoglio. Lavoriamo così duramente. Devono rispettarci. Tutti conosceranno il mio nome. Ah, non costruire castelli in aria. Il villaggio non conosce ancora il nostro latte. Il cuoco non ha nemmeno sentito il suo odore e stai già pensando a quanto ameranno i dolci. Oh, cosa devo fare con te, ragazza? Scusa, nonna, porterò il latte al villaggio. Ecco, prendi questo. Ricorda, non una sola goccia di latte deve essere versata. Questo è tutto il latte che abbiamo per oggi. E non fare inutili pause. Ho dato la mia parola al sindaco. Se il latte non arriva in tempo, possiamo scordarci il denaro. Non potremo nemmeno partecipare al matrimonio. Sarà un disastro affrontare il sindaco se non manterremo la promessa. Non preoccuparti, nonna. Mi prenderò cura di questo vaso di latte. Vedrai, saremo più ricche del sindaco in pochissimo tempo. Il sindaco comprerà il latte solo da noi. Ah, ricorda, Gita. Lo so. Non devo costruire castelli in aria. Ciao, nonna. Stai attenta. La strada verso il villaggio era piena di piccoli sassi. Gita annusava il profumo dei fiori freschi e delle bacche, ma lei odiava camminare. Quanto è bella questa strada! Ah, ma questi piccoli sassi mi fanno male ai piedi! Non importa, presto costruirò una grande casa in città. Non dovrò camminare così tanto allora. Sarò ricca. I ricchi non camminano. La la la la la la la. Gita camminava e camminava canticchiando la sua canzone preferita. Oh, questo latte è così pesante! Fa niente, mi comprerò un carretto. Tutto il duro lavoro verrà fatto dai buoi e io mi riposerò. Questo è ciò che fanno i ricchi. Gita camminava e camminava, si stava avvicinando al villaggio. Ancora poche miglia per diventare ricca. Oh, ma come userò i soldi in più che guadagnerò oggi? Dovrei comprare più mucche. No, dovrò fare tutta la mungitura e poi portarla al mercato per venderla. Tanto lavoro. Posso comprare delle galline? Sì, con tutti i soldi in più comprerò un sacco di galline. Dove terrò così tante galline? Dovrò costruire un piccolo pollaio. Come farò da sola? Oh, domani alle nozze chiederò al sindaco di aiutarmi a costruire un piccolo pollaio. Dopotutto, lui userà il latte delle mie mucche. Deve avere molti servi. Terrò tutte le mie galline nel pollaio. Le galline daranno poi un sacco di uova. Quelle uova si schiuderanno e avrò più galline. Venderò quelle galline ad un prezzo più alto. Guadagnerò un sacco di soldi con quelle galline. Con quelle comprerò un carro di buoi. Caricherò tutte le uova, le galline, il latte nel carro e andrò al mercato per vendere tutto. Guadagnerò un sacco di soldi per pagare servi e cameriere. Diventerò una grande donna, più grande della stessa moglie del sindaco. Molti uomini ricchi vorranno quindi chiedere la mia mano in matrimonio, ma dirò no. Mentre Gita sognava di dire no agli uomini, scosse la testa. E la pentola di latte sulla sua testa cadde a terra con un forte tonfo. Il vaso andò in pezzi e tutto il latte si rovesciò a terra. Gita si sedette e pianse. Tutti i suoi sogni, le sue galline, le uova, i carri di buoi erano ora come il latte, rovinati. No, non posso andare al villaggio ora. Non ho latte da vendere. Anche domani non potrò andare al matrimonio. Cosa dirò alla nonna? Ora Gita sentiva solo una voce nelle sue orecchie, quella di suo nonno. Non farti castelli in aria.